Sono solo questa sera e non mi va di uscire, vestirmi, parcheggiare, parlare per parlare, ma l'inquietudine mi assale e non c'è via di uscita in questo bilocale. Qual è il senso delle cose? Mille domande astruse. Perché posso pensare? Che cosa ci sto a fare? Perché di ogni storia riusciamo a ricordare solo il finale? All'improvviso l'ansia sale, il sudore sulle tempie, mi dimena in un istante, corro nudo per le stanze, con la smania di trovare un pretesto convincente per continuare a respirare. E cerco tra le gambe e le lenzuola, nell'avanzo della cera, tra la polvere e il tappeto, nelle rughe delle mani, nelle mie contraddizioni, nei cassetti degli errori, cerco il senso delle cose e delle canzoni. Dimmi perché sono qui, ti penso adesso, devi convincermi che se chiudo gli occhi il mondo resta lì. Perché io non lo so, io non lo so. Ora che mi accarezza l'idea di voler sparire e dissolvermi, mi aggrappo a quelle piccole stupide cose, mi salvo così, mi salvi così. E ti sarà successo di sentirti perso tra volti sconosciuti sotto un cielo coperto, la paura nelle scarpe con il tuo passo incerto. E allora dimmi che cosa ci fai, anche tu immersa dentro quelle strane idee. Chiudere gli occhi e non riaprirli più, e il mondo non c'è, ora non c'è. Dimmi perché siamo qui, mi guardi adesso, devi convincermi che se chiudo gli occhi restiamo io e te. Il mondo non c'è, ora non c'è. All'interno di un pensiero e nel buio ci riconosceremo.